Buongiorno, buon pomeriggio a tutte e tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata su 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come giovedì pomeriggio, questa è Attica Blues in tall'aria. Allora, giovedì scorso non avevamo finito il discorso dei DJ style alla Trojan, in quanto troppi brani ci sarebbero da suonare, e quindi avevamo rimandato a questo giovedì. Ma in realtà ci siamo accorti che è il centenario della nascita di Ella Fitzgerald. Tra l'altro c'è tutta una questione su questo centenario, perché alcune riviste non lo riportano, alcuni sì, alcuni no. E invece sì, in realtà in alcune fonti la data di nascita di Ella Fitzgerald è del 25 aprile del 1918, e anche nella sua tomba in realtà è riportata questa data. Nel 1993 Stuart Nicholson, che ha scritto la sua biografia, un libro che si intitola appunto La biografia della First Lady of Jazz, lei era l'appellativo che veniva dato a lei, era questo, scoprì dai certificati di nascita che lei in realtà è nata il 25 aprile del 1917 a Newport News in Virginia. E quindi quest'anno, così come Dizzy Gillespie, Thelonious Monk e Mongo Santa Maria, cade proprio il primo secolo di Ella Fitzgerald. E tra l'altro la fine del discorso dei DJ alla Trojan viene rimandato, perché giovedì prossimo invece ci sta di nuovo 45 rivoluzioni per minuto, la puntata mensile di Attica Blues dedicata al vinile, ai 45 giri, ai 33, ai 12 pollici. Un'Attica Blues sempre più ricca, eh? Quindi per la fine del discorso dei DJ style alla Trojan ne riparliamo a maggio, quando faremo ben due puntate sulla Trojan. Beh, giustamente si avvicina l'estate, quindi un po' più di reggae va messo in palinsesto. Oggi tra l'altro ci verrà a trovare in studio Enzo Capua da New York, che è di passaggio a Roma. L'abbiamo ospitato in una radiofonica da New York che abbiamo fatto uno o due mesi fa. Eh sì, l'abbiamo poi incontrato per caso ieri sera al concerto di Fabrizio Bosso. Un concertone, devo dire, Bosso un fuoriclasse come al solito. Sì sì, tra l'altro un bel quartetto fresco, frizzante, un concerto veramente valido. E allora ci ha promesso che sarebbe venuto a trovarci, se può, oggi. Idraulico permettendosi, comunque ci ha confermato che verrà, quindi a breve sarà qua negli studi di Radio Onda Rossa. E allora parleremo anche con lui di questa splendida figura, e appunto il centenario di Ella Fitzgerald. E allora iniziamo subito con una registrazione del 1936 con l'orchestra di Chick Webb. Questa è Mr. Paganini. Mr. Paganini, please play my rhapsody, and if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you simply have to swing it. I said swing it, oh swing it, and don't ding it. Oh, Mr. Paganini, we breathlessly await your masterful baton, go on and sling it. And if you can't sling it, you'll simply have to swing it. I said swing it, and scatter mepha and batter mesca. We've heard your repertoire, and at the final bar, we've greeted you with wild applause. But what a great ovation, your interpretation. Bop doodle and a doodle, yeah, yeah, yeah. Oh, Mr. Paganini, now don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Go on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to swing it. Thank you. Tra l'altro, se visitate le nostre pagine social, nello specifico la pagina di Facebook di Attica Blues, trovate tutta quanta una serie di video di Ella Fitzgerald e soprattutto un bellissimo disegno che Picasso dedicò a lei nel 1970. Tra l'altro c'è un episodio da raccontare riguardo questo dipinto. Norma Graz, che era l'impresario di Ella Fitzgerald in quegli anni, si trovava appunto in Costa Azzurra con lei ed era amico anche di Pablo Picasso, e allora cercò di organizzare questo incontro, ma al momento, la mattina, al momento dell'incontro, Ella Fitzgerald disse che doveva finire di fare il suo maglione, lei lavorava a maglia, e quindi decise di non incontrare Pablo Picasso, il quale appunto replicò con questo disegno, che insomma è una visione sua di Ella Fitzgerald, insomma lo trovate nella nostra pagina Facebook. E allora andiamo avanti con queste registrazioni degli albori di Ella Fitzgerald. Me on the way, I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Allora, benvenuto Enzo Capo, che ci è venuto a trovare qua a Roma da New York. Ciao Enzo. Ciao a tutti per un bel festeggiamento di Ella Fitzgerald, dei suoi 100 anni di nascita, la più grande cantante della storia del jazz, diciamolo così, no? Tra l'altro, appena sei entrato hai riconosciuto al volo il brano, hai tirato fuori l'anno. Allora, Tisket a Tasket è stato il primo grande successo di Ella, ed era con l'orchestra di Chick Webb. Chick Webb, che come sapete era un grande batterista, purtroppo piccolo, nano quasi, aveva una malformazione fisica, ma riusciva a suonare la batteria da padre eterno. E quindi questo successo qui fu il suo lancio, e quando lei cantò all'Apollo la serata dei dilettanti fu scoperta. Lo sai com'è la storia? No, raccontacela. Allora, all'Apollo Theater, ancora tutt'oggi lo fanno, ogni mercoledì c'è la serata di quelli che vogliono esordire nel campo della musica, della danza, un po' di tutto. A quel tempo era una cosa, negli anni 30, fondamentale, soprattutto per i musicisti di colore e anche per gli artisti in genere di colore, poter essere, perché il pubblico votava. Esibirsi davanti a un vero pubblico. No, ma il pubblico votava con gli applausi, le cose, tipo, insomma, non è la corrida adesso come possiamo immaginare, una cosa un po' più seria, più bella, però era così. E lei aveva 16 anni, se non sbaglio, e cantò questa canzone, insomma, fu un successo immediato e fu scoperta, e immediatamente avevano capito che era una grande cantante. Insomma. Era esattamente il 21 novembre del 1934. E come Billie Holiday, lei voleva presentarsi come ballerina in realtà, ma poi appena vide i ballerini, che in realtà erano molto più bravi, lei aveva già la stazza comunque abbastanza grossa, importante. Così, va? No, non era come poi è diventata, però era insomma bella, robusta, era già una mami, insomma. Sì. E quindi capisci, e così è nata la storia di Ella Fitzgerald. E nessuna cantante, secondo me, io faccio dei paragoni sempre con le grandi della storia, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Dinah Washington e Nina Simone. Questi sono il quintetto che Di tutte, insomma, no, potrebbe non aver avuto la stessa, come dire, controversa visione delle cose torturata di Billie Holiday. Non può aver avuto forse la stessa teatralità, il modo di a volte esagerato che aveva di Sarah Vaughan. Non aveva la carnalità, se vogliamo, di Dinah Washington, una musicista molto carnale. Oppure quel senso forte del sul, del soul che c'aveva Nina Simone, però fra tutte era, diciamo, aveva tutte le altre qualità, o comunque anche queste qualità al massimo. Quindi dal punto di vista dell'intonazione, dell'estensione anche della, non ci sono paragoni. Io credo che comunque dal punto di vista della cosiddetto Great American Songbook, le canzoni americane, è quella che ha fatto di più in assoluto fra le donne. Ricordiamo tra l'altro che la Verve è stata fondata proprio per permettere la realizzazione dei songbook a Ella Fitzgerald. Sì, diciamo, non è proprio così. Comunque, Norman Granz aveva un'etichetta che si chiamava Clef, se non sbaglio, sì, Clef. E quando ha capito che Ella Fitzgerald poteva essere un asso vincente in assoluto, le fece registrare i primi album completi o quasi dei grandi cantautori, dei grandi autori di canzoni, e quindi nacque anche la Verve a quel punto, e fu il, diciamo, il successo commerciale più grande forse della storia del jazz in toto, sia per Norman Granz che per Ella Fitzgerald. Per ambedue si rispettavano a vicenda. Si volevano molto bene, lui era gay, quindi lei comunque ha avuto delle storie con gli uomini un po' travagliate, è stata sposata anche con Ray Brown, vabbè, comunque ha avuto delle storie un po' travagliate, anche se poi questo rapporto ha un po' anche limitato forse la carriera di Ella Fitzgerald. Leggevo da qualche parte che lui imponeva anche il repertorio sia dal vivo che dal che no, sul live. Non credo che sia così. Comunque sì, certo, Ray Brown aveva una statura e una... No, no, Norman Granz. Ah, dicevo. Norman Granz, sì, ah, parlavi sì, di Norman. Sì, Granz. Sì. Sì, Norman Granz era uno che effettivamente era un po' così, però lei, voglio dire, di fronte a quei grandi album che ha fatto, ma ha coperto tutto, da Cole Porter a Rodgers and Hart, River Berlin, Gershwin, tutti li ha fatti, e l'unico che poteva, fra le donne nessuna, ma fra gli uomini l'unico che poteva rivaleggiare era appunto Frank Sinatra, il quale amava moltissimo lei, e proprio si questo molto bene. Si dice che proprio Norman Granz non volesse volesse incidere questo album fra tutte e due, mentre invece Frank Sinatra voleva. Non so se poi è leggenda oppure... Quindi, forse può essere leggenda, però c'è, attenzione, lo segnalo perché è molto bello, c'è una trasmissione televisiva, una serie che fece Sinatra, una puntata in particolare è lui con Ella Fitzgerald, e c'è Antonio Carlos Jobim anche in quella puntata, ed è straordinario, si trova in DVD, e c'è lì una, loro due fanno delle cose folli, fanno una versione di Ladies of Trump che è meravigliosa, e lei canta da sola un Body and Soul come nessuno ha mai cantato in quella trasmissione lì, è veramente incredibile. Si vede Frank Sinatra era in brodo di giuggiole, a un certo punto si inginocchia, si siede davanti a lei quando lei canta, quanto era bravo. Sì, davvero, era, lui lo dice, era insuperabile, era... Anche su Sinatra sono state dette molte fesserie, per esempio lui non suonava, non cantava dove, nei posti dove non facevano entrare i neri, per esempio. Era molto rispettoso del... È chiaro che lui aveva le sue amicizie, sappiamo quali sono, è chiaro che era anche un businessman, però dal punto di vista artistico e dal rispetto per i musicisti, gli arti, tutti i musicisti che hanno suonato con lui ne parlano tuttora molto molto bene. E allora andiamo avanti con l'ascolto di Ella Fitzgerald. Qui siamo nel 1945, perché poi una volta morto Chick Webb, lei l'orchestra è diventata proprio la sua, Ella Fitzgerald, anche se poi lei non aveva tutte queste competenze per dirigere un'orchestra, ma questa, insomma, è It's Only a Paper Moon. Sailing over short sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. E allora salutiamo Maria che ci ha telefonato qua allo 06 49 17 50 al numero di Radio Onda Rossa, una nostra fedele ascoltatrice che tra l'altro ci ha sottoposto un aneddoto dicendoci che Marilyn Monroe insistì moltissimo per far entrare Ella Fitzgerald in un locale dove in realtà non erano ammessi i neri. A te ti risulta, Enzo? Sì, erano molto amiche loro due e c'è una foto bellissima che si può ancora trovare, credo, online, di loro due che chiacchierano ridendo sedute una accanto all'altra. Erano molto amiche, si volevano molto bene. Ovviamente, essendo due donne grandi protagoniste, una per un verso e una per l'altro, con caratteristiche totalmente diverse, non potevano che volersi bene, insomma, perché voglio dire, erano due grandissime artiste comunque. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey. E allora dicevamo, una vita travagliata comunque quella di Ella Fitzgerald. Molti attribuiscono, magari lei era comunque un ottimista, era sempre piena di gioia rispetto a Billie Holiday, che invece era più tormentata, e erano famose le sue interpretazioni. Sì, travagliata rispetto per esempio a quella di Billie Holiday o Diana Washington, non credo tanto. No, siamo lì proprio ai limiti, alle estreme. O Nina Simone, per esempio, ecco, voglio dire. Era un artista che comunque ha avuto una strada aperta già da quando era ragazzina e non si è fermata mai. In questo caso vogliamo dire che la fortuna e il grande talento si accoppiavano, cosa che non succede tanto spesso, comunque quasi mai, diciamo. Quindi lei ha avuto una strada molto spianata e ha avuto tutto quello. Gli sono mancate due cose importantissime nella vita: un grande amore, perché diciamolo, lei voleva un figlio e non è mai riuscita ad averlo personalmente, ecco perché si era sposata. Non credo che fosse proprio un folle amore quello con Ray Brown, con qualcun altro, ma lei voleva un figlio, non l'ha mai avuto, l'ha adottata una bambina, se non sbaglio, la viziava in maniera incredibile, ovviamente, perché non era riuscita e amava da morire i bambini. E l'altra disgrazia che ha avuto in tarda età è quella di avere avuto la malattia che l'ha portata poi a perdere le gambe, insomma un finale molto, molto brutto per una vita smagliantissima. E comunque ci rimane la sua grandissima arte, quello certamente. Una produzione sterminata, tra l'altro ci sono decine e decine di CD. Allora io dico una cosa, credo di avere quasi tutto, quando dico quasi tutto, dico quasi tutto di quello che lei ha inciso, forse mi manca qualche cosina, ed è sterminata veramente, eh? Anche gli album dal vivo che continuano a volte degli inediti. Bisogna averli, niente da fare quando escono di lei. Che poi sono incredibili i suoi sketch con cui era fortissima. Quindi io dal vivo più che mai. Persino ciò, guarda, la collezione completa di quella di lui, lei e di Uccelletto della Cotta Azzurro, che non so che si trova più quello, un cofanetto di tutte le serate che hanno passato insieme, là è pazzesca veramente, con Duke Ellington, un altro che l'adorava, Duke Ellington, veramente. E non hanno mai fatto, cioè lei ha registrato il Duke Ellington Book e poi lui l'ha chiamata per fare un terzo album di suoi inediti. C'è una storia un po' complessa su quel songbook di Duke Ellington e la Figera. Che tra l'altro, per la particolarità, è che lei non suona in quel songbook con l'orchestra di Duke Ellington, mi sembra. Ci sono, no, c'è solo, ci sono qualche brano, ma... sì, ci sono i componenti dell'orchestra, però c'è è uscito anche un terzo album, era un doppio, un terzo album, se non sbaglio, con l'orchestra che fa degli omaggi a Ella Figera con lei che canta in Dirty Bass. Questa è la cosa. Tutti i dischi della Verve, ricordiamo. E allora, Ella Figera, tra l'altro, poi questo non so se ce lo puoi confermare, aveva avuto una relazione col sassofonista Vito Musso nel 1939 e aveva anche abortito illegalmente, da lì pare la sterilità della stessa. Non lo so, purtroppo non mi informo tanto sulle vite, so delle storie, eccetera, ma le vite talmente personali degli artisti a volte, per esempio su Billie Holiday me ne han dette tante, perché io ho avuto la possibilità, la mia fortuna forse, di incontrare le persone che l'ha conosciuta e l'ha frequentata, Billie Holiday, e aveva anche lei un carattere molto speciale, molto controverso, a volte abbiamo un'immagine in una maniera, in un'altra. C'è una storia molto bella che posso dire. Lei cantava in un club al Village, non era al Greenwich Village, era abbastanza famosa, ma non ancora la Billie Holiday, quella diciamo dalla fine degli anni 40 in poi. Ecco. Comunque era una che già poteva esibirsi con la sua band. Cioè. Quella sera, per qualche ragione, è perché il pubblico era probabilmente tutto di bianchi, gli girava un po' storto. Allora, che cosa fece? Sulla scena, questo è raccontato da un testimone oculare, questa cosa. Sulla scena, prima di cantare, si girò verso il pubblico e tirò su la gonna, ed era senza biancheria intima. Una cosa che in quegli anni lì. Scandalosissima. E si girò con uno sberleffo e ha detto una parola tipo "Now we're gonna start, cantiamo", eccetera. Il proprietario del locale, nell'intervallo, dice: "Ma scusa, ma perché hai fatto la cosa? È successo. Mi andava così. Get them to fuck off", qualcosa li ha insultati, perché non gli piaceva questa cosa di questo pubblico, probabilmente non era il suo gradimento. Uno degli episodi, insomma, di Billie Holiday, che era un artista veramente incredibile. Però continuiamo con ella, va. Che tra l'altro erano amiche. Certo. Erano anche buone amiche, Porta. Rivali, ma amiche, insomma. Come no, certo. E allora, proseguiamo anche con la musica. How High the Moon. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I'll steal my heart. How high the moon. High the moon is the name of the song. How high the moon, though the words may be wrong, we're singing it because you ask for it. So we're Does it touch the stars? How high the moon? Does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking how high, high, high, high, high is the moon? Boo, boo, boo, boo, dee, dee, dee, dee, dee, boo, boo, doo, dee, doo, dee, dee, dee, dee, dee, boo, boo, doo, down, down, down, dee, boo, boo, boo, dee, doo, doo, doo, doo, doo, bo bo bi ba ba bo o bi da ba bi be un le de di da ba bo bi di di di di di di do do do do do ba bi bi un da ba u ba un di bi u ba ba bi un ba bi ha bi bi un ba bi bi u bi ba bi u do le de di un da bi un ba un bi un ba un bi un ba un ba un ba un ba bu di di di bi a ba bi bi u di ba bi bi bu bi di di di da da di u do le de di di da do le bi bi u ba bi u da bu bi bi bi u da do le I do little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little little Qui è con l'orchestra di Ray Brown, che lei in realtà poi sposò, era il suo secondo marito, non il primo, in quanto il primo matrimonio fu invalidato perché il marito era appunto un criminale, no? Aveva commesso dei... C'è una caratteristica delle cantanti che permane tutt'oggi, attenzione, non è legata solo a un periodo, di la capacità, l'abilità di trovare degli uomini, gli uomini peggiori per cui stare accanto, va bene? Quindi ce l'hanno avuti tutti, da Billy Holiday non ne parliamo, trovare dei criminali che la picchiavano, la trattavano uno schifo, eccetera. Nina Simone, un'altra, Diana Washington ne ha sposati 9 ed è morta a 36 anni, quindi facciamo i calcoli. Cioè, erano pure degli tempi, pure del tempo. Era abbastanza, insomma, hanno avuto sempre questa abilità di trovare degli uomini che ella sì ha avuto. Ray Brown, che certamente confronta ad altri e ovviamente andava bene, e non è, secondo me non era un grandissimo amore, lei voleva un figlio, questa è la verità, cosa che non ha mai avuto. E comunque il pezzo che abbiamo appena sentito, How the Moon, ci ha dato la possibilità di sentire lei al suo massimo con lo scat, perché sì, con lo scat nessuna altra cantante della storia della musica è riuscita così, così bene a farlo. Billie Holiday non lo faceva proprio, era proprio fuori dal suo stile, ma anche qualcun'altra che ci ha provato non è mai arrivata a quel livello. Invece ella ha fatto dei pezzi interamente di scat. Sì, interamente, e abbiamo sentito proprio un esempio. Tra l'altro è un pezzo quello che è stato poi recuperato dai Boppers, cambiato il titolo con l'improvvisazione. Charlie Parker ci ha fatto, mi pare, non so se era Ornithology e la trasformazione di How the Moon, non mi sbaglio, comunque era uno dei pezzi che fu trasformato dal infatti Boppers. Ella diceva: quando i ragazzi improvvisavano mi sentivo tagliata fuori, così mi sono semplicemente unita a loro usando la mia voce come uno strumento. E tra l'altro ella ha attraversato un tantissimi generi, anche il pop, la musica brasiliana. Quella è colpa del signore di cui ci dico sopra, no? Magari perché quegli album dei Beatles o dei brasiliani, diciamo, lasciano il tempo che trovano, non è che... Però fin da bambina dice che lei era solita imitare le canzoni che sentiva e quindi cantava qualsiasi cosa. Tisketo Tasket è una canzone pop, però come la intendiamo noi, però ti spiego, dagli anni 60 in poi pop e Beatles eccetera, quindi tutta un'altra cosa, quindi non c'è nessuno nel jazz, nel canto jazz, che ho rarissimi casi che riuscite a fare dei pezzi. Dico, solo da recentemente qualche pezzo dei Beatles o di altri che abbiano un valore artistico notevole in campo jazz, naturalmente. Ma della musica brasiliana lei ha cantato Jobim, che citavi prima. Sì, però lei non mi convince quel disco, neanche guarda Sarah Vaughan ha fatto anche lei il disco brasiliano. Non, per cantare in brasiliano bisogna avere quella cosa dentro, quella saudade, quella roba lì, non c'è niente da fare. Loro possono cantare benissimo, per carità, tecnicamente sono impeccabili, certo. Sì, guarda, sì, pensa sì. Solo una cosa, c'è quel video di cui parlavo prima, il DVD in cui c'è Antonio Carlos Jobim, no? Fa un pezzo con Sinatra, fra Girl from Ipanema. Lui Sinatra la canta prima in inglese col suo modo eccetera, quando interviene Jobim è tutta un'altra storia, non solo perché è cantata in brasiliano, ma proprio l'accentazione, eccetera. Diciamo, la musica brasiliana ha quella sofferenza insita che, certo, in America ovviamente c'era in maniera differente. Sì, è una sofferenza però più attenuata, più dolce, più morbida, più swingante, capisci? È una cosa che rimane lì. È una malinconia, mettiamola così. È ecco. Quella che loro chiamano saudade. La saudade, sì, la saudade. E allora andiamo avanti con la musica. Qui è con l'orchestra, diciamo appunto, di Ray Brown. Lei lo conobbe nel 1946 quando accompagnava Dizzy Gillespie, l'orchestra di Dizzy Gillespie, e lì il contrabbassista era appunto Ray Brown. Si sono sposati nel 1947, ma divorziarono appunto nel 1953. Questa è Airmail Special. questo passiamo a un live registrato il 13 febbraio del 1960 a Berlino. E la particolarità di questo brano, Mack the Knife, è quella che Ella Fitzgerald da un certo punto non si ricordava più le parole e quindi cominciò a improvvisare appunto su questo brano, improvvisazioni che le valse il Grammy Award. Ricordiamo che è un pezzo famosissimo di Kurt Weill, faceva parte dell'opera di Tre Soldi di Brecht, che quindi diventò poi uno standard anche in America, ma l'origine è tedesca, se ecco. Vogliamo. E allora le valse appunto uno dei 13 Grammy Awards per questa grande artista, Mack the Knife, Ella Fitzgerald. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it, and since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shock has pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight. Oh, the shark bites with his teeth, dear, E allora Enzo si è fatto un giro tra i CD che abbiamo portato e ci ha scelto una traccia, ci ha selezionato una traccia da suonare. Allora, qui siamo nel 1957 ed ella è accompagnata dal trio di Oscar Peterson, tra l'altro è la stessa scuderia di Norman Granz e quindi loro spesso suonavano insieme. Con Herb Ellis, Joe Jones, eccetera, eccetera, no? E allora, qui siamo all'Opera House. Questo è un pezzo, quello che sentiremo, che mi è particolarmente caro perché è una canzone straordinariamente bella sia nella musica che nel testo, che si chiama Bewitched, Bothered and Bewildered. Gli autori sono Rodgers and Hart. Sentiamo, va? He's a fool and don't I know it, but a fool can have his charms. I'm in love and don't I show it, like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately I've not slept a wink since this half-pint imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering whimper child again, bewitched, bothered and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep, then love came and told Senti, insomma, tu c'avevi un aneddoto su questo brano? No, non è proprio un aneddoto. Sì, diciamo un aneddoto. Allora, questo brano era in un film particolare, molto bello, di Frank Sinatra, che si chiama Pal Joy. Pal Joy era con due signorine, il signor Sinatra, che hanno fatto anche loro la storia del cinema americano, Rita Hayworth e Kim Novak, una bella accoppiata. Il film è molto bello e c'è Rita Hayworth che canta Bewitched, Bothered and Bewildered. Allora, Rita Hayworth non aveva la voce ovviamente di Bella Fitzgerald, né ovviamente la capacità interpretativa, però si distingue per una certa, io consiglierei di ascoltarla quella, c'è anche su disco, si può trovare, di Rita Hayworth che canta Bewitched, Bothered and Bewildered. C'è una sua sensualità, ecco, che forse ella non ha mai avuto, diciamo, non si può dire che avesse una sensualità nel cantare, va, difficile. E allora l'hai nominato prima Frank Sinatra, qui ce l'ascoltiamo proprio in coppia con Ella Fitzgerald, Necessity. Sì, pure perché diciamo che in questa giornata uggiosa a cui avete volci il tempo vola, sono le 5:10, quindi dopo aver ascoltato le prime registrazioni, qualcosa del suo repertorio e qualche live, adesso passiamo ai duetti di Ella nella sua carriera, che sono stati numerosi tra l'altro. What is the curse that makes the universe so all bewildering? What is the hoax that just provokes the folks they call God's children? What is the jinx that gives a body and his brothers and everyone around the runaround? Necessity, necessity, that most unnecessary thing, necessity. What throws a monkey wrench in a fella's good intention? That nasty old invention, necessity. My feet wanna dance in the sun, my head wants to rest in the shade. The Lord says go out and have fun, but the landlord says your rent ain't paid. Necessity, necessity. It's plain to see, it's plain to see. What a funny old world this silly old world could be. But man, it's all in a mess, a kind of necessity. Necessity, necessity. There ought to be a law against necessity. I love to play some tennis or take a trip to Venice, but sister, here's the menace. Necessity. Yeah. Old Satan's the father of sin, and Cupid, he's the father of love. Oh, hell is the father of gin, but no one knows the father of necessity. Necessity. Necessity. That's the maximum that a minimum thing could be. There's nothing lower than less unless it's necessity. Beh, diciamo che parlando dei duetti di Ella non si può prescindere dai duetti con Louis Armstrong, probabilmente uno dei CD più belli della storia in assoluto. Sì. Ce ne sono 13 di 13 di in due anni dal 1950. Sì. Ma poi tra l'altro forse la copertina, delle copertine più belle in assoluto. Sì, sì, sì, assolutamente. Questo Ella e Louis. Questo si intitola proprio Ella e Louis, e ci ascoltiamo la traccia di apertura, Can't We Be Friends. I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. what a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? But by that day, I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down, say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave for me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends? Sono le 5 meno 5 qua a Radio Onda Rossa. Ci ha appena chiamato Marta della Schiena del Sol, che farà qualche minuto di ritardo, quindi Attica Blues si allunga un pochettino, ma fedeli ascoltatori della Schiena del Sol, non ne mordete, perché a breve arriverà Marta. Noi continuiamo con i duetti di Ella, ne ha fatti tanti nella sua carriera, ricordavamo prima solo con Luis ne ha fatti 13 di... Sì, poi duetti anche con strumentisti, ricordiamo quello con Oscar Peterson, sì. Tutte e due della scuderia di Norman Granz, e poi anche dei bei lavori, anche dei bei live con il chitarrista Joe Pass. Tra l'altro proprio Enzo ci ha scelto una traccia, l'ha scelta lui. Giorgio My Mind, dovete sapere, è una canzone che non è quella che noi sentiamo da lei e che non abbiamo sentito da Ray Charles, era un'altra cosa. Fu trasformata completamente da Ray Charles con quella interpretazione meravigliosa, e da lì è diventato un classico dei classici, un pezzo stupendo. In realtà era una canzone, se vogliamo, country americana, nobilitata, come si dice, da questi grandi interpreti, prima da Ray Charles e poi anche da Ella Fitzgerald. Quindi qua ce l'ascoltiamo insieme a Joe Pass. Smile. Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps jangling on my mind. I said Georgia, Georgia. A song, a sweet song of you, comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Out of the pines, other arms reach out to me. Still in peaceful dreams, I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps joy. Qui fuori onda Enzo ci racconta pure aneddoti su aneddoti, che meraviglia. E allora proseguiamo ancora questo splendido duetto fra Joe Pass e la Fitzgerald. Qui siamo al primo disco, 1973, e proprio Joe Pass raccontava di come fu chiamato da Norman Granz ad accompagnare appunto Ella Fitzgerald, ma non aveva idea di quello che dovessero suonare, la tonalità. Allora disse che appunto in studio Ella Fitzgerald iniziò a cantare questa G Baby I Got To You, e lui andò dietro e da lì venne tutto naturale, tutto facile, e quindi ci ascoltiamo proprio questo brano che è dato via a questo questa collaborazione. Duetto. Senti, ma allora ci raccontavi del significato del titolo di questa canzone? Allora, G Baby I'm Good To You sì, è un modo un po', se vogliamo, slangato di slang, ma non è proprio uno slang, è un modo proprio discorsivo di dire: diavolo, bella mia o bello mio, non sono proprio adatto per te, insomma, questo significa sostanzialmente, è un lamento, ecco perché è un blues, vogliamo, di una persona che non riesce proprio a capire come mai non riesce a stare con quest'altro. Quindi vale per uomini e per donne questo, ovviamente. G baby I'm good to you, quando si dice G è come dire diavolo, caspita, peccato, qualcosa del genere. E allora, ahi noi, ultimo brano per Attica Blues in questa puntata, e abbiamo scelto l'incontro fra Ella e Oscar Peterson. Siamo nel 1975 e il brano si intitola Mean to Me. Must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say you'd phone. You don't, and I'm left alone singing the blues and crying. You treat me coldly each day of the year. You always scold me whenever somebody is near. Dear, it must be great fun to be mean to me. You shouldn't forget to see what you mean to me. Thank you. be mean to me. Gee, honey, it seems to me you love to see me cry. And I stay home each night when you say you'd phone. You don't, and I'm left alone, just singing a blues and crying. You treat me coldly each day in a year. You always scold me whenever somebody is near, dear. It must be great fun to be mean to me. You who shouldn't forget, you see what you mean to me. So mean, why must you be so mean to me? What a meanie you are. Senti, allora forse abbiamo il tempo per una o addirittura altre due tracce. Enzo, dicevamo che verso giugno casomai faremo un'altra puntata in collegamento telefonico con te sul jazz attuale. Ci preparerai una selezione su quello di più fresco, quello di più nuovo che ci sta in circolazione oggi. Se siete pronti a ricevere questa roba e a farla ascoltare, perché non è certo molto di facile ascolto, però sono delle cose molto interessanti nel jazz contemporaneo che si fa in America. Beh, assolutamente, per avere il polso un po' di quello che succede dall'altra parte dell'oceano, per noi è anche una possibilità, insomma, visto che possiamo ovviamente ascoltare quello che succede qua da noi. Benissimo, lo faremo senz'altro, io sono a vostra disposizione. Continuiamo con Ella? Allora sentiamo un pezzo che mi è caro particolarmente, perché è una canzone che non è molto battuta, ma è di un romanticismo unico ed è scritta in maniera stupenda. Si chiama Stairway to the Star e dice proprio: costruirò una scala che porta alle stelle per stare con te. Insomma, è molto bella. E allora, qui è un live a Hollywood, registrato al Club Crescendo. Let's build a stairway to the stars and climb that stairway to the stars. Thank you, it would be heaven to climb to heaven with you. We'll hear the sound of violins out yonder where the blue begins. The moon will guide us as we go drifting along. Can't we sail away on a lazy daisy pedal? E allora, no, il tempo sta per scadere. Ancora un ringraziamento a Enzo Capua e per questa splendida puntata su Ella Fitzgerald. No, mi fate arrossire, anche perché poi non la possono vedere il mio rossore. Ci diamo appuntamento da New York, allora, no? Esattamente. Però ricordiamo che la possono riascoltare attraverso i nostri podcast che trovate sul sito della radio e anche attraverso le nostre pagine social di Facebook, Twitter e Instagram. Basta cercare Attica Blues e usciamo noi. E allora ci sentiamo giovedì prossimo con la rubrica 45 rivoluzioni per minuto, quindi tune in. It would be heaven to climb to heaven with you. Way took about